un piatto qua, secondo me diciamo lo sistemo bene, poi ti faccio vedere che, oddio, non so, vediamo un po', lo sposto di almeno un metro, circa. Ma io ho il microfono tra il cazzo, perché il finale è vicino, e quindi naturalmente c'è dentro la microfono, senti, io la sento, è come se la sento. Mi pare che non abbia mai avuto interesse in questo viaggio. Prova a venire a mettere la portante muta, Luca. Aspetta. ci mette? Perfetto, si sente solo il QRA, cioè televisione o cos'è, non lo so, ma di ronzini niente, proprio nulla, sai cosa vuol dire nulla? Nemmeno in cuffia, io mi ho messo le cuffie appositamente per quello. Non lo so, vabbè, forse va in una radio diversa. Non lo so, ma non con lo sport, non va bene qua giù, è tutto montonato, non va assolutamente bene. Lo sposto, cerco di... lo metto vicino all'alimentatore, altro non ne fa niente. Io non sento niente, pulitissimo. Solo sento la televisione o cosa è, qualcosa, quello lì e basta, ma niente di ronzini, niente. Evidentemente lui ha le cuffie che ha qualche rientro. Ascolta, un'altra cosa, Giulio. Vediamo un po' a te quanto cambia. Allora, così non ce n'è. Ok? E così c'è, vai? Non è molto, da 9,2 a 9,5. Meglio. E poi la quadratura al massimo. Aspetta un attimino, aspetta un attimo, voglio fare. E ciao Giulio. Ciao a tu. Tutti convinti che tuo padre stava uscendo forte, fortissimo, stava modulando dal tuo baracchino. No, negativo. Giulio, aspetta un attimino, scusa. Allora, così è senza, ok? E così c'è lui, guarda un po'. Così, da 9 a 9,5. Prima era 9,2 e 9,5, adesso 9 e 9,5. Cappa. Andiamo, va bene, Giulio. Perché io quando sto arrivando, Giulio? Vabbè, stai arrivando esattamente con lo stesso segnale che stava arrivando tuo padre, che infatti poc'anzi l'ho detto, in sola modulazione, sta modulando il baracchino del figlio, ma forse nessuno mi ha sentito. No, negativo, te lo so confermare. Qua, fai una prova. Abbiamo dato l'antenna, stavo provando, e sulla base calamitata. Sente qua, sente anche con altro, vedi la differenza. Prova a vedere la differenza anche nella radio, alla stessa timbrica. Oh, non me ne frega niente, vai così, non mi freghi. Adesso sarebbero Santiago 2 e tuo figlio arriva a 9, abbondante, ti puoi immaginare. Poco fa stavi arrivando tu con lo stesso segnale identico e con la stessa timbrica di microfono. Giulio, te lo giuro, non è così, no. Adesso ho dovuto attaccare questo perché me l'ha detto Luca che stava rondando. Quando fa così è la batteria, ho attaccato questo, il tutto. Ma se vuoi che ho stato la donna, mi attacco l'altra, è vero. Eia, fai come vuoi, tanto non mi convinci. Vabbè, non fa niente, via, fa, ci sentiamo, dai. Io sono convinto dall'altro di quello che ho detto, poi, ma non è un problema, assolutamente. Comunque, tu mi stai arrivando praticamente con lo stesso segnale di Luca quando lui è attaccato. Capa, Giulio, te lo giuro, no, non sto scherzando, è lui col baracchino suo, io col mio. Qua se voi facciamo la prova ci sovramoduliamo e te lo faccio vedere subito. No, infatti è più basso Antonio qua, Giulio, te fa più alto, lui, molto più alto di lui. E poi perché dovrei fare una cosa del genere, no? Non è che... E se stavo provando questa antenna, se voglio te la rifaccio la prova, senti la timbrica di questo qua e trocca, questo è la 48. Sì, d'accordo, questo è Santiago 1 e mezzo. Poco fa era Santiago 9. Però va avanti, voglio essere convinto, eh. Beh, dammi il tempo di scambiare il PN, vedi. Io sono sempre qua e non mi muovo per niente. Ci sovramoduliamo anche, ti faccio vedere che non è così, te lo giuro. Vabbè, provate in due insieme, dai, forte. Sai che sta attaccando. Guarda, sente bene, come si sente anche lo stacco il microfono che è diverso. Sì. probabilmente hai ragione. C'è stato un momento che avete parlato in due e ho sentito a te più che Antonio. Probabilmente è perché ti ho soggiunto che mi hanno regalato, l'ho messa su una base magnetica e funziona meglio di quella Storm 27. E se no, no, cioè metto io di fare cose così, no, per fregare cosa qui, per fregare a me, per... lasci a casa che esci bene con quella, mentre con l'altra arrivo bassissimo, quasi non riesco a sentirti. Sentiamo uno, sono sempre detto, sentiamo uno e mezzo e la radio, e invece con questa arrivi è addirittura più forte di Antonio, di poco, ma di almeno non so 9-2, mentre Antonio arriva a 9, capito? E dunque è addirittura più forte, tanto è vero, non rimane sotto la modulazione di Antonio. Giulio, Eia, dimmi. Eia, ascolta, guarda un attimino, faccio un altro passaggio. Questo qua non è il segnale, guarda. Adesso è 8:30. 8:30? Così quant'è? Ora, prova. 9:05. Oh, è strano, Molto strano. Sto pilotando con 1:15. Evidentemente non l'ha accodato bene Luca, cosa ne so, se non accodi bene è chiaro che non ti può rendere, no? E cavolo, cioè, certo che è accodato bene, è tutto a fondo, cavolo, ma stai scherzando? E c'è solo una manopola, solo con quella puoi manovrare e basta, non ce ne sono altre manopole, c'è una manopola a tune, non ce ne sono altre. Non lo so, per parlare te guarda il segnale, guarda, così normale. Sì, attaccato, vai. Allora, da 9 a 9:10. Da 9 a 9:10, aspetta. Come vedi ci sono 10.S in più, c'è che se io ti ho detto poco fa 8:30 e passi a 9:05, praticamente aumenta lo stesso tanto di come aumenta da Pierpaolo. Allora, un attimino, Allora, qua Pierpaolo, quant'è? 1, 2, 3, prova. Questa è la 9:20, tuo solito. Il mio solito 9:20. Quanto? 1, 2, 3, prova. Guarda un po'. Vai. 9 sul 3, sul 3 del 30. Ah, già sai, sì. Così io te lo sto leggendo come appare qua. Sì, sì, allora me fai praticamente 9:20, normale. Con l'attacco sale sul 3 del più 30, giusto? Sì, sì, sul 3, proprio sul 3 spaccato. Sul 3 spaccato. Invece altro ne lo faccio, 9, così è alto, 9, 9, 10, così è. Grappa, e adesso c'è un po' di più perché ho spostato l'antenna. Va bene, ma comunque già va bene per giocarmi, già va bene, rimane a spara questa cosa. E beh, già lo grido. Ma hai cambiato il baracchino, hai cambiato? Io? Ehi, tu? Prima era il Midland, adesso è il mio. Appunto, perché questo è più forte. Ma prima sto usando questo, non so che sto a controllo, la prima volta. Sto usando questo qua, Giulio. Ma poi era il Midland. Lo so, ho capito. Ma questo, così, anche normale, è più forte, naturalmente. E dunque, ma quell'altro che tu mi stavi dicendo che lo pilotavi con 1:15, vabbè, con 1:15, ma raggiunge praticamente non la stessa potenza di questo, ma quasi. Non so, tu quanti watt stai usando? Io? 3.8, come sta segnando qua. Mi sta arrivando 9:15. Io ne sto usando 10 e mi dai un... aspetta, no, così sono 10. Quanto segnale mi dai? 9, mi hai detto, così è. No, così è 9:02 e poco fa è 9:05. Ah, sono, non so se il mio è troppo alto verso la parte tua, lo smitter, oppure il tuo è un po' caro. Aspetta che provo, che cambio antenne te lo do con l'altro smitter, a vedere un po'. C'è l'altro smitter, perché questo probabilmente è anche un pochino a vano. Aspetta, cambio solo l'antenna e ti do il segnale con l'altro baracchino che ho accanto a questo. No, ma non per niente, no, non per niente, perché il problema è che tu mi stai dando 9 più 2, 9 che è più 2 e le associano con 10 watt. Tu mi stai arrivando a 9,15, stai associando con 3 watt e mezzo. No, oh, guarda, sono qua io, vai. Ma lo sai cos'è? Da switcher a switcher c'è differenza. Proviamo comunque, dai, se un cambio con un baracchino e ti do il segnale con l'altro. Io ne metto uno che di potenza ne ha un pochino meno di questo, però probabilmente è più generoso come switcher. Adesso vediamo, dai. Ehi, vai, vai, vai, tranquillo, va. Avanti, Daniele, ci sei ancora? Ehi, Luca Ariana, già ci sono, cava cava. Comunque anche da te 5 punti salgo, così è Daniele. Cava, va bene. Kappa. Ok, va benissimo, dai, ci sto per tagliare le bistecche, già va bene. Cazzi, minchia. Prova a attaccare lui, a vedere come prova una cosa. Prova a attaccare, voglio vedere una cosa. Attaccare? Attaccare. Attaccato, stand by. Guarda, così è attaccato, vai. Cava, stai arrivando più forte del solito attaccato, Prima arrivavi 9, adesso sei 9 qualcosa. Così è attaccato, guarda, quant'è? 9 e 2, 9 e 3, 9 e 1. 9 e 5 sei lui, attaccato. Prima era 9. Cava, il giorno di addietro eri 9, 9 spaccato. Allora fai 9 e 5, così è 9 e 10. Da 9 e 5 vai, passi a 9 e 20, dai. Ah, non sono 5 punti, sono 15 punti, cioè 10 punti. Ehi, avete di parecchio attaccato. Cappa, che andava? Perché ce ne fa l'altro, capito? Ho finito digitale prima, adesso questo è analogico. Ehi, Giulio, guarda un po', 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, staccato sono, vai. Con questo invece saltiamo 8, mi sta segnando. Allora dei picchi fortissimi, ma aveva 9 e 10 con i picchi. Prova a attaccare. Attaccato. Hola, prova, vai. 8 e mezzo mi segna, no? Si che è più a guardo di questo. Questo è più a guardo dell'altro allora. I picchi sono sempre quelli, 9 e 10 e anche 8. Vediamo un po', dai. Questo come il mio è più basso comunque questo, vero? 9 e 10. Ho capito. Mentre così invece qua tre, adesso di segnale, adesso ho messo un po' di vitamine. Dimmi se anche te è satura. Sì, leggermente saturo, quasi 9 più 20. Ok, allora attacco. Adesso cambio antenna e metto l'altro baracchino ancora. Ehi, vai, vai, tranquillo, vai, sono qua. Che è il tuo passo? No, ho detto io quanto sono. Tu sei 9 e 10. No, da... Uru. Da coso? Ma, da Giulio. Da Giulio non so quanto sia, secondo me è tra gli occhi. Oh, con quel baracchino lì. Guarda, due sono le cose, o i baracchini tratti male, oppure ha problemi di ricezione, perché qua lui mi arriva con 3 watt e mezzo, 9 e 15 mi arriva, 9 più 15, poi con l'attacco arriva più 20, più 22, dai. Chiappa, già va bene, dai. Ma no, che come ti ho detto ieri, no, non hai nessun rumore, nessun ronzio e nessun aeroporto comunque. Almeno non mi ascolto, perciò non so se c'è o meno. L'apparecchio giovane è più... c'è l'apparecchio più serio lui. Non so. Vabbè, comunque non c'è problema. Spostare o non spostare? Perché qua basta un colpettino e cade in terra questa cosa. Praticamente con i piedi mo sta bloccando il frontale del baracchino, perché se lo metto proprio sopra il baracchino scivola, ma la polpettina cade in terra, capito? E niente, infatti già quando non lo uso lo stacco, lo metto da una parte, se non mai cazzo che poi cade in terra ci faccia, mamma se non ci pensa ne scendi. Luca! Luia! Vai! Allora, adesso è 9 staccato con l'Intec 340S. Prova ad attaccare, vedete? quest'anno, più o meno i segnali sono tutti uguali. Questo qui è l'Intec 340S. Ok, vabbè, io adesso ho attaccato anche, adesso com'è il segnale con questo, adesso e poi è attaccato adesso così. Allora, è quasi 9.15, quasi 9.20. Ho capito, vabbè. Ok, vediamo un po', adesso metto il toccare, ti voglio sentire col toccare se il valore dello smitter è sempre quello, aspetta che cambia con l'antenna. Allora. Bene, mi senti col microfono normale? Perché mi si è scaricata la batteria in quello là. Ecco, prendo il caricatore, la metto a caricare. Capa Roger, è un gabbiere. Quasi quasi, a vero, minchia. Grazie, Cogli. Ma l'avevo chiesto in macchina, per forza. Che antenna hai del qua? Qua non lo so nemmeno, me l'hanno regalata. Va bene. Stamattina l'ho provata in macchina, così adesso l'ho messa sulla base incrementata e ho voluto provarla a casa. Ma è ricco, ma è buono. Eia. Ma quanto è alta più o meno? È alto, 1.10 m, 1.15 m. 1.15 m, 1.15 m. Comunque guarda che non sto scherzando, c'è il cambiamento. Te lo sto dicendo, aumenta. E poi aumenta anche la Daniele. La Daniele prima di 7, comunque la passi 9, ma c'è l'aumento. Luca, posso anche dare ricezione, c'ho più ricezione. Via, vai Giulio. Ok, proviamo a vedere. 1, 2, 3, 30, 40, 1000, guarda un po', staccato, vai. E attacca, move sempre, attacca, vedi. Attaccato, aspetta un attimo, sta provando anch'io qua, vai, aspetta. Vai. Mister, questo invece, quando è attaccato da di più, 9.10 da questo. 9 e 9.10. Comunque già va bene, non è che... No, quando non capisco io il tuo, come stai arrivando 9.15 o 3.15, tu mi dai un 9, un 9.2, o io un 10, capito? Vuol dire che il tuo smitter è più generoso, Luca. Adesso l'ho attaccato anche qua, guarda, adesso è attaccato, in questo momento. Adesso è attaccato, ecco. E l'hai fatto 9.15, quasi 9.20. Visto, sì che sempre tutti quanti danno lo stesso valore, più o meno. Sì, evidentemente tu hai lo smitter che è un pochino più generoso di questi apparati che ho io. Sicuramente sì, dai. Un attaccato meglio, eh. Ah, comunque no, però non la si usa, non me ne frega niente. Già va bene. Lei si cacchemmi, no? Guidate, facciamo raffreddare. Qui pare una bistecchiera a Bari. Andate, guarda che c'è Antonio che ti vuole, ma che non controllo, guarda tu. E io quando ti sto arrivando, adesso ho un microfono normale, quando ti sto arrivando io lì. È staccato, non è staccato, guarda, poi è perfetto, col toccaio adesso sono, col toccaio 50.24. Chiappa, fai più o meno gli smitter con tutti quanti uguali. Infatti, quando la potenza è quella, diciamo che ci può essere una leggera differenza, ma niente di più. Tu invece quanto mi dicevi a me, con il tuo, così come adesso, e poi così come adesso. Allora, così sei in off, cioè senza essere attaccato sei in off da me, attaccato sei 9.20, una cosa del genere. Ho capito, si capisce bene Luca, ci sono delle sfasature da smitter a smitter, no? Perché... se arriva, se da te aumenta per dire, non so, 5.S, da lui ne aumenta 20, vabbè, lui magari nella l'antenna esterna, voglio dire, l'antenna sul tetto, può essere anche quello, non lo so. Comunque, vabbè, gli Smith sono Smith dei baracchini, io ho capito, un dubito professionale ci vuole per sapere realmente i segnali giusti, capito? Ah, da che lo faccio? 9.45, 9.65. Appunto, si capisce bene che quello è uno smito professionale e naturalmente è affidabile. Questi si sa, sono giocato e basta, cosa mi sa dire? Lo so, no, per dirtene, prendetene una. Vedi, arrivi più forte tu da Antonio, che io perché arrivo 9, mi sembra. Ciao Giulio. Attaccato 9.10, giusto? Yeah, così che passa lui, giusto? Prova a sopra modulare. Sono staccato, aspetta, la scaldare. Di quanti fatti è quello che hai tu? È un centinaio, dai. Quando l'antenna è in posizione tensione ideale va bene, quando invece è meno ideale chiaramente qui ci possono essere dei rallentamenti. Giulio! Ma dimmi. Ascolta, no, ci sei? Sì, ci sono. Ehi, aia, devo passare se c'hai sei mezzi pezzi di legno, là. Ok, vabbè. D'accordo, dai, io vado, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Giulio, buonasera. Pitto Luca, adesso mi ha messo anche in ponte, cazzo. Non so neanche più cosa fare. Oh, vedi tu. La canaria la devi finire, poi non lo so. Papà, qua sei un bambù. Va benissimo. Chissà che mi ha messo resa in macchina, cazzo. Non è regola, tu mi dici che se voglio una riadina a fare. Cosa lui, ma mai stava dicendo? Ci dice un bel male, il passaggio con la freppa non Pierpaolo, fa un passaggio? Guarda adesso Luca, in piedi prima, capito? Guarda se sono seduto, sono giusto, com'è? Quanto sono i toni? I toni sono a 5, se vuoi abbasso li metto a 4 adesso so. Ma a 4? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 10, com'è? Più chiara, la gente è più bassina ma è più chiara. Cava, guarda adesso... che ho leggermente diminuito anche il volume, com'è? Sì, va bene, ma è troppo squillante, non va bene. È troppo amplificata, è troppo forte, adesso va bene. Però non è arrivi molto meglio, ma poi non so la Pierpaolo. Ehi, guarda ancora adesso, Luca, com'è? Va bene, lascio così, cava, cava. Sono così, Pierpa. Ti rilascio adesso. Cava, anda per la. Anche tu sei russo, Pierpa, cazzo, non così tendo vera, va. Vabbè, ma... per forza più stare in macchina questa, domani mattina me la tolgo da qua. Cioè, non c'è molto da tutto. Adesso la passo per la vittata e l'ho spostata verso l'altra parte della veranda, no? Dove c'è più ampietà. E l'ho migliorata pure, figurati. Adesso speriamo che mi faccia la stessa cosa in macchina. A casa mia è quella? Qua non lo so nemmeno, si assomiglia a quella come c'era Natalino mia, all'incirca è così. Ah, PLC? Così fina, è fina, è arrivata a 1,10 m. Ma già va. Cava, no, se non si è attaccato già sta andando. No, no, non c'è niente là d'attaccato, guarda, te lo giuro, non c'è neanche l'alimentatore, è dentro la scatola sempre, e lo sto vendendo tra l'altro, e se no sono stato attaccato, l'avrei detto che sono attaccato. Quanti ampere l'alimentatore? 7 ampere, e non ce la fa. Non ce la fa neanche il mio, che è un 12 ampere, non ce la fa. Sì, vabbè, ce la fa, ma crea problemi. Andava. Per papà andare bene uno di questi che c'ho io. Oh, non c'è fa macco, ma lo sai come te l'attacco base? Se tu ti già tutto, No, ho detto, questo amplificatore che c'ho io ti va bene. Sono sicuro che ti aiuta molto anche. Vabbè, io lo sto cercando, infatti quello lì non lo voglio vendere perché no, non me ne faccio niente a comprare un altro alimentatore burro, scatto dopo comprare un alimentatore, voglio trovare qualche cosa già alimentato e tutto, capito? No, ma sugli occhi lo se lo vende, gli occhi e dopo ti faccio sapere. Fammi sapere, perché no, poi quasi 747, troppi fili, troppe cose. Ma devi comprare al minimo un alimentatore da 30 ampere. Non me ne sono parlato mai, ne ho già visto. No, questo è fiammante, è nuovo, però ce n'è un negozio, nuovo. Adesso gli occhi, se lo sento domani. Vabbè, fammi sapere, a vedere se ci mettiamo la cosa in fretta. No, cioè, non è che mi interessi molto da Berevignale perché non è che tanto meno, non è che mi dà da soffrire. Ma comunque, se ce l'avrei uno così, che qualche volta così, giusto, la faccherei. Ciao, due ingressi, 5, 4, 4 e 10 watt. Lo puoi pilotare con 10 o puoi pilotare con 4 watt. Questo è un numero 4 watt, cioè. Ehi, già ti aiuta, vedrai che va bene. Se lo chiedo, se lo chiedo se lo fai. sincero, più volte attaccato, l'ho provato, vabbè, non va l'alimentatore, ma sinceramente, con tutta sincerità, non mi piace, mi va contro la scatola, tanto di scontrino e garanzia, e si va con l'orgoglio che non abbia più, se non abbia arrivato in chi. Allora io lascio, penso di domani di sentirlo, non si sa per qualcuno se lo vuole prendere. Cosa ti volevo dire? Ah, dammi per il cielo, lascia per fermo, non lo sa più, già l'ho tutto, tienilo tutto, lo usi. Qui ce lo fai scaldare, lo fai girare un po'. Ci lascia una domanda, fai un rossetto e glielo dico. Poi vediamo un po' cosa mi dice. Ma adesso tu non ci credi, ma guarda, una frutta, veramente, intanto, guarda, sembra una corona ciocchetta, ma mi fa incazzare, perché funziona meglio questa antenna di qua là. Uscite qua, è così, è la pura verità, è la pura verità. C'è un altro dittolo, poi cambia da Daniele, cambia da come si chiama, Giovanni, cambia da Claudio, arrivano per 30, vabbè, credo, si può dividere di fronte. Guarda, non lo so pensare, se ci avremmo avuto l'idea di attaccare, cazzo, diciamo, anche da andare a me, su questa linea andava bene, se avremmo avuto l'elettatore buono, ci avremmo anche provato. Mai rischi di bruciarlo, la saputi di no, così ci sto per provarla con lineare a vedere cosa dà, capito? Perché magari da quei 5-10 magari te le può dare in questa antenna, se funziona meglio. Oh, va, ma io non ci avrei provato perché è troppo piccolo quello di metattore. Oh, va, ci vuole fare la prova. No, l'ho già detto, non posso provare perché se lo attacco va di si spegne tutto, non grabbate. Perché sotto alimentato. Beh, 7 ampere, 2, tant'è, ne prende già 2 ampere il baracchino, ne rimane in zinco già. No, non ce la fa, nel loso lubosa completamente. Il baracchino ti assorbe un ampere e mezzo circa, dai. Un ampere e 2, non ci rimane neanche un ampere e mezzo. Lineare se ne assorbe buoni 8, 7, 8, facciamo non ce la fa. Io se vuoi la posso anche fare la prova, ma senti soltanto no, non siamo fruttidini, già che anche va più di tempo a fare la prova. Andiamo, ok, non ti preoccupare, andiamo un po' cosa mi dice. E poi ti posso sapere, nuovo per fa, nuovo. Vabbè, chiudo da vedere, e vediamo. Giusto per qua, qualche volta, non sempre, ma qualche volta. Ia, non c'è problema. Aspetta, è facilissimo da usare, c'è una manopola, funziona in banda, SSB, AM, FM, e poi è facilissimo, no? Fa la cordatura e via, stai andando. Mi sono appena fatto anche con un batte e mezzo. L'ho sentito già poco fa, no? Già va bene già. E dico, va bene, no? A me attacchi di alimentato e buco. Il baracchino io lo uso per fare la volumone per il capo, non so, c'è il capo che quando tocco il microfono si sente un bel il midland, infatti è più una paramonda e sui baracchini. Sì, va bene, lo puoi lasciare così come cosa, anche se poi si c'è in concessione. Sì, guarda, no, tanto di dire, no, non lo uso neanche, uso questo qua, uso questo. Sì, con la terra lì va molto bene, va molto bene. Vediamo un po' se è arrivato Daniele. Daniele. Lì due. Vai Antonio. Sono qua, sono. Ah, di lì sì, andava. Sono già tu, e tu sei qua sulla parte di Giulio. Zona Padania è da una zona di Porto Torres, arrivi, non molto bene, poi arrivi, sto parlando, ce lo sentiamo dopo che passiamo a casa di Luigi, allora lì iniziamo a sentirlo, ma sicuramente con 40 anni lo sentiamo anche prima. No, stufa stasera, sentivo odori, non mi ricordo come era il tipo, e stavo salendo da contentore, si stava parlando con Gigi sul carro e lo sentivo alla perfezione, era sentito anche me lui. Va benissimo. Non lo so, adesso vediamo. Ma su decisione. Chi è avanti? Cos'è? Non ho capito. Senti su, pum. Mi ho sbagliato il tappo. Ah, tu vedi. Solito, vabbè, se vuoi, una M con tutti i disturbi che ci sono, se 4 è un po', se tutti il tasso se 5, 6, da almeno quello, ma se di sotto il 4, la modulazione è normale. No, ma già ti ascolto lo stesso, dai, sono qui. Mi vuoi provare in FM, vedi? Va bene, lascialo così, ti ascolto lo stesso. Non è problematico, ma tutti i l'importante è ascoltarsi e farti una chiacchierazzina. Però mi sto sentendo poco questi giorni, ogni tanto entro così, ma niente, di solito vado su, capisco, a 6-3-5 a chiacchierare con degli amici di questo versante. Che lavoro fai, Angeli? Sì. Oh yes. Quindi servizio puntuale, così. Cioè, non ho capito cosa hai detto. Di qua. Tutti gli all'est, Scusa. Va dietro l'as. È mondino, l'ho sentito questa mattina. L'ho sentito presto, proprio, non l'ho sentito più. Intera più, compreso. Eh? Ehi! Il tempo fa quello che vuole. E noi dobbiamo obbedirle. Lui comanda e quindi siamo sottoposti a lui. È l'unica cosa dove non ci può fare niente. Ma comunque. Tutto fa brodo. Ma dove sei? Proprio di fronte al mare? Spostati, meglio che non c'è un punto migliore. Sai. Io non lo so perché decido quindi non so se rispondo, forse dentro, boh, vediamo. Allora, buon proseguimento, ci sentiamo dopo. Ciao. Gianni. Sì, È un controllino di Santiago, per cortesia. Allora, questo... anche tu 9 è un pochino in questo passaggio, vai, sembra essendo più su 9 quasi 5, ok, vediamo un po', così mi pare sempre più o meno lì, è un radio è 5, bella pulita, netta, ecco, se faccio così cos'è più forte? Sembra sempre uguale. Aspetta un attimino. No, cosa sto facendo? Scusami. Perfetto. Così, guarda, questo passaggio qui dovrebbe cambiare qualcosa. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi pare che la stessi. Aumenta di amplificazione ma la stessa. Se non sai intanto manca. Riprova. È la compressione magari, dai. Passagela. Non lo so come si fa. Sto provando un apparato nuovo e quindi prendo un po' come sta funzionando. Mi pare che questo ci sono tutti i bordelli. Lo so, aspetta. Questo c'è un bordelli. Sì, c'è il computer acceso. Boh, a me mi sembrava la modulazione. Mi pare la modulazione. Che apparecchio è? 718 di com. Visto che vedi uno di aiuti che conosco, sembra la stessa impronta, ma vabbè, l'assenza della suggestione, però le indicazioni non tradiscono. No, già questo è nuovo de pacca, nuovo, lo sto testando e niente, tutto qua. Va bene, grazie del controllo, già Stefano, comunque, se lei già avrei capito. Grazie del controllo, se devi uscire, buona serata, io rimango un attimino in RX, anch'io sono qui al computer e fra poco esco. Ciao, grazie ancora. Ciao, tanto che ti vedo io. Ciao. ciao, ci sentiamo, spero che ci rimetto. Ciao, ciao. Presente, vedi che zona è, perché Sassari non è piccolo. diciamo che lì all'Alghero più o meno vi conoscete tutti, ma Sassari è un casino, per dire abito qua ed è un altro per dire vicino, lo conosci tu per dire Antonio che abita come da adesso lì dalle parti di Lunassone, e mica lo conosco. Yes, sono andato con un 4 e ancora devo aspettare. A dopo, ciao ciao.